piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Se dovessi descrivere The Circle a tua nonna, quali parole useresti? Direi il caos del web che diventa eleganza. È più importante la società o il singolo individuo? Direi entrambi. Cosa ti fa più paura? Sono sempre stato convinto che gli esseri umani debbano migliorarsi. Usando al massimo le nostre capacità, le possibilità sono infinite. Qui a The Circle non esistono problemi che non possiamo risolvere. Senza segreti, con l'accesso a tutte le informazioni personali, potremo esprimere al massimo il nostro potenziale. Potremo vedere ogni cosa. The Circle è un film che è passato nelle sale cinematografiche da poco tempo. Non ha avuto un enorme successo, più o meno era pubblicizzato perché gli interpreti erano noti, Emma Watson, Tom Hanks. In realtà è una storia molto complessa e molto interessante anche per leggere la contemporaneità. Tom Hanks è il titolare di un'azienda fantastica che assume Emma Watson, avete sentito il colloquio di ammissione, che sembra in realtà soltanto un'azienda che si occupa di software, si occupa di gestione di dati personali, ma in realtà andando avanti, non faccio spoiler poi fino in fondo, si capisce che in realtà il vero scopo di questa azienda era creare il grande database dell'umanità e con questo controllare l'umanità, perché quando si sa tutto di una persona, si ha tutto in memoria di una persona, si ha in mano comunque l'identità di questa persona e naturalmente giocando sulla reputazione, giocando su riportare in superficie episodi passati, si controlla comunque la società. Questo è un grande problema della contemporaneità. Noi in questo momento siamo nella fase di ammasso gioioso della nostra vita privata, i luoghi di cui vediamo la porta d'entrata, ma non vediamo poi il magazzino, non vediamo poi il contenitore. Mettiamo dentro tutto con grande gioia, con grande spensieratezza. Raramente ci ricordiamo che sono parti della nostra vita che consideriamo vita privata. Oggi non c'è più il concetto di privato. Mettiamo, accumuliamo. Poi ogni tanto ci rendiamo conto che forse qualcosa era meglio che non lo mettevamo. Banalmente, l'episodio più banale, che ne so, per un uomo pubblico può essere quella tal pranzo, quella tal cena in cui c'erano personaggi imbarazzanti seduti a quel tavolo, che allora non erano imbarazzanti, erano personaggi normali, ma nel tempo farsi vedere di aver frequentato, anche se in maniera innocente e consapevole, certi personaggi può danneggiare la propria reputazione. A livello più banalmente legato a esperienze più collettivamente condivise, hai una storia d'amore e tu la immortali giorno per giorno, attimo per attimo, sui social network, perché trovi che questo sia bello, che tutti vedano quanto sei felice, quanto sei contento, la storia finisce, riapri altre vicende sentimentali e naturalmente i nuovi arrivati non gradiscono avere comunque sott'occhio in memoria la traccia del tuo passato con un'altra persona. E allora vorresti che queste cose non ci fossero più. Ma sono infiniti gli episodi in cui noi dobbiamo comunque acquistare consapevolezza che in realtà questo grande gioco alla fine ci presenterà il suo conto. Verrà un momento in cui ci renderemo perfettamente consapevoli del fatto che abbiamo regalato la nostra vita a qualcuno di cui non sappiamo esattamente quale sia l'uso che ne farà. E cosa si fa a quel punto? Beh, oggi si pone un grande dilemma. Da una parte abbiamo comunque il nostro diritto a essere rappresentati per quello che noi vogliamo rappresentarci. Noi ogni giorno diamo una prova della nostra epica individuale, mettendo in rete, attraverso i social network, quello che noi facciamo. Successi, situazioni importanti, non so, ieri ho presentato, sono stato a un convegno, c'erano le foto, mi piaceva mostrare le foto delle tante persone che sentivano quello che dicevo. Altri giorni faccio una passeggiata con i miei figli, mi piace far vedere che passeggio con i miei figli, sono tutti e due maggiorenni, ma viene istintivo ricercare il consenso di persone che si conoscono mettendo in rete parti della nostra vita privata. E questo è un nostro diritto. Io ho diritto, come tutti hanno diritto, di essere rappresentati. Abbiamo uno strumento di rappresentazione individuale, perché non usarlo? Sì, però sorge altrettanto il diritto di tante persone di dire: ma Sì, l'ho fatto, però non voglio che rimanga eternamente presente quello che per me è stato un momento. Possono essere momenti felici, possono essere momenti infelici, possono essere momenti di gloria e possono essere anche momenti di cui ci si deve vergognare. Mancano 38 secondi, veloci! Dai, che pistola! 27! Veloce, avanti! Dai! Svelto, cazzo! Sbrigati! Riempi la borsa! 22! Si esce, non si smette di sparare, chiaro? Chiaro! Ora! Vai! Questo è un film di il regista Enzo De Camilli, uno studente di nome Alessandro. Sono questi film che raccontano episodi di cronaca realmente accaduti, raccontati con una passione quasi documentaristica, anche se ci sono degli attori. È il film che racconta un episodio, un triste episodio di cronaca romana degli anni di piombo. Era il 5 marzo 1982, ci fu una famosa rapina a Piazza Ernerio a Roma, dove uno studente 17enne, Alessandro Caravillani, rimase ucciso. Questa rapina fu compiuta da un gruppo dei NARCA, i nuclei armati rivoluzionari. Sono passati molti anni. Dopo molti anni, uno di questi rapinatori, Roberto Nistri, ha chiesto che venissero cancellati da Google tutte le tracce di questo suo episodio del passato. E Google gli ha negato questo diritto, come gli aveva negato sempre un giudice, il diritto di impedire appunto al regista Enzo De Camilli di raccontare la storia della rapina di cui è stato protagonista e assassino attraverso un film. In entrambi i casi, sia per girare il film sia per cancellare da Google le tracce di questo episodio, è stato detto di no. Questo è un episodio simbolico proprio per capire e per rappresentare questo dilemma della contemporaneità, il diritto all'oblio e il dovere della memoria. È stato detto che in quel caso c'era un dovere di lasciare alla memoria storica quell'episodio, perché raccontava comunque una fase del nostro paese che non può essere cancellata. D'altra parte, l'ex terrorista rivendicava un suo diritto all'oblio. Questa frase, diritto all'oblio e dovere della memoria, è anche il titolo di un libro edito da Bompiani, L'etica nella società interconnessa, di Umberto Ambrosoli e Massimo Sideri. Abbiamo al telefono entrambi e comincio con Umberto Ambrosoli. Buongiorno Ambrosoli. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ambrosoli è un avvocato, politico, saggista, è presidente della Banca Popolare di Milano, ha pubblicato nel 2009 Qualunque cosa succeda, dove parla dell'assassino del padre Giorgio Ambrosoli, che è il commissario guidatore della banca privata italiana, fu ucciso da un sicario assoldato al tempo dal banchiere Sindona. Quindi ha anche una sua parte biografica importante nella storia del nostro paese. Poi vogliamo cominciare, Ambrosoli, con l'inizio, con l'incipit del vostro libro che ho rappresentato sonoricamente attraverso la radio. Ecco, è un episodio significativo quello dell'ex NAR che dice cancellatemi da Google, e chi ha ragione in questo caso? L'ex terrorista che vuole cancellare un episodio della sua esistenza che lui considera elaborato, o Google e la comunità civile che dice no, non si può cancellare la storia? Fino ad oggi la giurisprudenza riconosce il valore fondamentale dell'interesse pubblico alla conoscenza di un'informazione o di una notizia. Laddove è riconosciuto dal giudice l'interesse pubblico, allora quella notizia deve rimanere a disposizione di tutti, attraverso le diverse chiavi d'accesso, inclusa quella che la lega al nome di un terrorista, di un autore di ciò di cui si chiede la cancellazione. Questo per quello che riguarda il diritto all'oblio esercitato secondo le norme del nostro ordinamento, risalendo a un'autorità che decide a riguardo. Esiste però anche un'altra forma di raggiungimento del diritto all'oblio che non passa attraverso il vaglio di magistrati, di corti, di tribunali, di Google o di quant'altro, e che viene esercitata attraverso società che legittimamente inondano il web di sistemi che ingannano gli algoritmi di Google, rendendo così esattamente lo stesso servizio che si riuscirebbe a ottenere attraverso un procedimento ordinario. Sono quelle aziende che diciamo ti salvano la reputazione, così viene detto. Esatto. Tu paghi, mettono dentro la rete un'infinità di altri tag in modo che passi diciamo nell'oblio, scenda sotto nelle evidenze di Google. La curiosità di tutti noi non si spinge facilmente oltre la seconda pagina di Google, quindi di fatto si ottiene esattamente quel ragionamento. Ma tornando, non è proprio una cancellazione, diciamo, è una messa in secondo piano. Se uno cerca, poi c'è sempre, perché non è che è tolto. Sa che non è così facile. Io sto facendo da tempo, periodicamente, la ricerca su una notizia che ricordo abbondantemente pubblicizzata, di una persona che avevo poi conosciuto e che mi aveva detto: guarda, io riuscirò a farla sparire. E sono 2 anni che questa informazione non riappare, ma neanche nella 15ª pagina di Google. Non so dove e con quale sistema, so che è costato molto quel genere di soluzione, ma non so dal punto di vista tecnico come è apparsa. Poi mi scusi, Brosoli, non è un aggirare però quello che è il diritto. Cioè, io ottengo una cosa che probabilmente non mi sarebbe stato consentito. Se per assurdo l'ex NAR pagasse un'azienda, il suo nome sarebbe cancellato, nonostante il parere sia del tribunale sia di Google. È esattamente una delle insidie che mettiamo a fuoco con Massimo Sideri nel nostro libro, che parte da quello che però ha detto lei, un'importanza di valutare il significato della memoria per quegli episodi che hanno una rilevanza storica degna di essere vittoriosa nel confronto col diritto dell'individuo a potersi ricostruire una reputazione. Ecco, io vorrei però fare un altro esempio, questa volta con Massimo Sideri, che ricordo è un giornalista, è l'innovation editor del Corriere della Sera e dirige il Festival di Innovazione Galileo di Padova. Ha scritto vari libri, ricordo Banda Stretta con Francesco Caio, Tecnologismi, Free Press, che è un giallo sul mondo della stampa, e via dicendo, parecchi libri. Sideri, c'è un altro episodio che ci dà più o meno la stessa lettura. La Apple, nonostante la richiesta del giudice americano di aiutare l'FBI a entrare nelle informazioni dell'iPhone 5 di uno degli attentatori della strage di San Bernardino, cioè 14 persone innocenti uccise, nonostante questo l'Apple dice: io non vi posso dare i codici per entrare nel suo iPhone. Come è andata a finire quella storia? No, la storia è interessante perché fa da cappello rispetto all'analisi che facciamo del conflitto, del dilemma tra diritto all'oblio e dovere della memoria. È chiaro che nella nostra società stiamo vivendo un conflitto ancora più ampio, che è quello che vede da una parte la nostra libertà e dall'altra parte la nostra sicurezza. Allora è facile comprendere questo dilemma, soprattutto quando si è in tempo di guerra, quindi l'impossibilità di uscire di notte con il coprifuoco è un tipico caso in cui sostanzialmente accettiamo, per avere maggiore sicurezza, minore libertà. Però una cosa interessante che sta capitando oggi è che tutto ciò sta avvenendo non in tempo di guerra, ma in tempo di pace. Non ci sono leggi speciali, in teoria non ci dovrebbero essere leggi speciali. Se vogliamo dare l'idea del terrorismo, un'idea che siamo tutti in guerra contro qualcuno, forse questa è la giustificazione. Ma credo che la cosa interessante è che tutto ciò stia avvenendo non tramite legge, ma tramite la tecnologia. Appunto l'esempio che lei ricordava, cioè dell'FBI che aveva chiesto in qualche maniera di entrare nell'iPhone di un terrorista, di un conclamato terrorista, perché il terrorista era stato ucciso proprio durante l'azione, quindi non c'era il dubbio che potesse non essere un terrorista. Anche in quel caso la Apple ha detto: no, non è possibile aprire questo iPhone, perché in qualche maniera andiamo a ledere la sicurezza degli individui e la privacy, la libertà degli individui. Beh, è un'operazione di marketing, sarebbe stata deleteria per loro, perché allora chiunque compra l'iPhone proprio perché pensa sia sicurissimo, qualunque cosa succeda, anche di fronte a un tribunale che ti vuole inchiodare con delle prove, tu stai sicuro che nessuno può aprire il tuo telefono. Su questo è stata basata tutta la campagna per vendere quel tipo di telefono. Anche derogare a questa cosa sarebbe stato per loro un grosso danno. Sì, però il tema è molto più in generale, perché in qualche maniera è chiaro che stiamo, lei prima ha parlato giustamente di ammasso gioioso, io direi che siamo nella fase della riflessione prudente. Le persone sempre di più stanno iniziando a comprendere che la tecnologia ci permette tantissime cose, però il gioco comunque non è senza un conto da pagare, e per esempio in quel caso gli americani si sono divisi sul tema, e metà della popolazione ha detto sì, ha ragione l'Apple perché in qualche maniera metterebbe a rischio tutti noi, l'altra metà della popolazione ha compreso che invece entrare nell'iPhone di quel terrorista poteva permettere magari di fermare un compagno di quel terrorista che poteva preparare un altro attacco. Oddio, mi viene a dire, per essere cattivo, che sono quelli che avevano Android come sistema operativo del loro telefono. Ci fermiamo soltanto un istante, però mi risponde proprio fra un minuto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Ti facciamo una semplice domanda. Chi sei? Chi potresti essere? Dove stai andando? Cosa c'è nel mondo? Quali possibilità ci sono? La Element Software è orgogliosa di presentare il primo sistema operativo di intelligenza artificiale. Un'entità intuitiva che ti ascolta, ti capisce e ti conosce. Non è solo un sistema operativo, è una coscienza. Ecco a voi, OS1. Lo ricordate? Questo era il film Air, lei, del 2013. Facemmo una puntata, era interessantissimo, era il protagonista, alla fine si innamora del sistema operativo del suo telefono, che ha una voce suadente e che lo seguiva in tutte le operazioni, anticipava i suoi desideri, insomma si creava come un'intelligenza artificiale una sua personalità. Alla fine lui ne rimaneva totalmente schiavo, usciva a fare scampagnate con un amico, con la fidanzata, lui come fidanzata si portava lo smartphone, perché ormai aveva un rapporto individuale con la propria coscienza allargata dentro il suo smartphone. Naturalmente questo sembrava qualcosa di futuribile nel 2013, oggi nel 2017 già comincia a essere qualcosa di più plausibile, di più probabile. Abbiamo sentito e stiamo parlando con Umberto Ambrosoli e Massimo Sideri, autori di Diritto all'oblio, Dovere della memoria, L'etica nella società interconnessa, un libro appena uscito da Bompiani che proprio ci cerca di analizzare quelli che sono i grandi dilemmi della nostra contemporaneità, anzi il grande dilemma della nostra contemporaneità, in cui tutti ci sentiamo ormai parte di qualcosa che riguarda tutto il mondo, tutto l'universo, e questa nostra parte comunque, questa nostra piacevole partecipazione agli eventi del mondo ci costa, perché dobbiamo, come una sorta di patto mefistofelico, lasciare qualcosa di noi in questo scambio. Questo qualcosa di noi cominciamo a capire che in realtà ci costa caro. Volevo far intervenire assieme agli autori del libro un altro ospite che è Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Andrea Rossetti è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, dove dirige anche il Bicocca Security Lab. Allora Andrea, questi sono temi che dibattiamo abbastanza di frequente, ma ogni volta c'è qualcosa di nuovo da aggiungere. Al punto in cui siamo, tu che sei anche un informatico giuridico, quindi segui le mutazioni e le variazioni del diritto a seconda delle variazioni dell'umanità nel porsi attraverso gli strumenti digitali. Ecco, qual è la grande incognita di questo momento? Abbiamo sentito Ambrosoli e Sideri citare alcuni casi legati alla cronaca. Vorrei più entrare però nel privato del comune cittadino: non ha fatto rapine, non ha ammazzato nessuno, non ha assolutamente conti aperti con la giustizia, ma nonostante questo ha parecchie cose che magari vorrebbe che si cancellassero dal suo racconto quotidiano nei social network. Beh, sicuramente quello che sta accadendo ad esempio è che sempre più spesso i genitori mettono online foto dei loro figliuoli quando sono piccoli, quando sono minorenni, e poi quando questi crescono si ritrovano la rete, soprattutto Facebook, intasata di foto che con l'età sono diventate ovviamente imbarazzanti. È proprio un caso che è successo in Austria. Questa ragazza ha fatto causa ai genitori dopo averli più volte invitati a rimuovere tutte le immagini di lei da piccolina, e il giudice ha dato ragione alla ragazza, nel senso che effettivamente queste immagini diventavano lesive dell'immagine che la ragazza da adulta voleva dare di sé. E questo mi sembra davvero un caso paradigmatico, perché come dicevi tu all'inizio, no, noi sempre più spesso in infiliamo in rete, senza il permesso di colui che è raffigurato, le sue foto, non pensando che queste foto resteranno lì per molti anni, anzi tendenzialmente per sempre. E anche se oggi sono foto simpatiche, tra un po' di tempo invece potrebbero non esserlo più. Noi umani siamo fatti in qualche modo per dimenticare, no? Ricordare significa anche e soprattutto dimenticare un sacco di cose, cioè ricordare semplicemente eventi particolari, situazioni specifiche. La memoria invece di noi umani con queste nuove protesi si sta modificando, nel senso che noi tendenzialmente riusciamo a ricordare tutto, o almeno tutto quello che c'è in rete. Ecco, di quello di cui parlavo poco fa con Umberto Ambrosoli, la possibilità, pagando, lecito, alla luce del sole, non c'è nulla di illegale, di avere un servizio di cancellazione, o perlomeno di oblio forzato delle proprie memorie digitali. Questo chiaramente non è che può essere un servizio molto popolare o che passa al Servizio Sanitario Nazionale. Questo non crea una discriminazione in termini di diritto, non crea una discriminazione fra chi può cancellare e chi può invece non cancellare. Indubbiamente procedure di cancellazione tra virgolette, perché alla fine poi significa occultare le informazioni che non si vuole siano trovate. Il servizio costa moltissimo, peraltro non è automatico, ma ci devono lavorare per molto tempo molte persone, molti esseri umani, insomma non però funziona, perché se dico Tambrosoli cerca funziona. Una cosa non la trova. Sì funziona. In realtà quello che io posso fare è anche rivolgermi direttamente a Google per avere una cancellazione. Ma ammesso non che ti dice di no. Non sempre, non è mica vero. Nel senso che Google non è un servizio pubblico, non dimentichiamocelo. Se io sono abbastanza grosso, posso anche spaventare Google in realtà. Insomma, posso minacciare Google di trascinarlo in una causa molto lunga. È chiaro che devo essere anch'io in una posizione di forza. Banalmente devo avere un sacco di soldi. No, però scusi, Umberto Ambrosoli, se per assurdo l'esempio citato prima, uno dicesse voglio cancellare tutta la mia storia d'amore precedente perché mi inquina quella attuale, non ha strumenti di convincimento verso Google per farlo togliere? Direi tendenzialmente di no. Bisogna anche poi immaginare quanti sono i contesti nell'ambito dei quali quella storia d'amore è riproposta. Ci sono esempi significativi da questo punto di vista che rappresentano la capacità, vuoi con la forza persuasiva, vuoi con la forza del denaro, spesso le due cose vanno assieme, di cancellazioni di notizie che hanno avuto un'ampia eco. Dico sempre cancellazione nella forma dell'occultamento, sì, in questa sotterramento direzione. Sotterramento parziale, ecco, diciamo. Mettiamola così, è un metodo di gran lunga più efficace rispetto a quello legale, anche perché quello legale ha un piccolo limite. La giurisprudenza che si è formata e anche la normativa collegata in Europa è completamente diversa da quella americana. In America il diritto all'oblio non ha il riconoscimento che il nostro ordinamento europeo invece riconosce, con una situazione paradossale che una stessa ricerca, lo stesso nome, magari quello di quel terrorista del quale parlavamo prima, qualora la sua domanda fosse stata accolta, fatta da un paese europeo, darebbe un risultato diverso rispetto a quella fatta da Google negli Stati Uniti d'America, a parità di mantenimento della notizia, perché quello che viene fatto con il diritto all'oblio applicato a internet è solamente il delisting del nome della persona rispetto al link con il sito che contiene la notizia. E che varia dal paese di entrata, se io entro in un altro paese ritrovo tutto tale quale. Esatto, tanto che la Francia recentemente ha minacciato Google di una sanzione molto severa se non rende omogeneo sul piano globale l'esito delle ricerche rispetto al diritto all'oblio stabilito da un'autorità europea. Ma allora voglio sentire, Massimo Sideri, da un punto di vista non giuridico ma puramente tecnico, questo prevederà dei costi immensi per chi gestisce i dati come Google, se poi realmente passerà l'idea che se una cancellazione, se un'azione va fatta in tutta la rete globale, non soltanto nei limiti territoriali e simbolici di un paese. Ma non è un caso che le società come Google infatti rifiutano qualunque responsabilità editoriale, come diremmo noi giornalisti. Quindi la difesa delle società, dei cosiddetti over the top, questa terminologia che in qualche maniera accomuna le varie società come Google, Facebook, Apple, Amazon, è sempre stata: noi siamo una piattaforma, non ci occupiamo dei contenuti. Ciò che sta emergendo invece è che... È sempre meno credibile però, è sempre meno credibile. È sempre meno credibile perché il mito della neutralità tecnologica è stato smentito ampiamente dai fatti. Cioè, gestiscono più contenuti loro quasi che i siti di un giornale ormai, cioè non ci prendiamo in giro. Esatto, e soprattutto la tecnologia che loro implementano aiuta fondamentalmente a influenzare i risultati. Da quello che abbiamo sentito prima emerge questa contraddizione enorme. Noi all'inizio del libro abbiamo ripreso una frase di Oscar Wilde, che nessuno è tanto ricco da potersi ricomprare il passato, e abbiamo aggiunto: Oscar Wilde smentito dall'innovazione tecnologica e dall'abuso del diritto all'oblio. Questo è vero, l'abbiamo sentito. D'altra parte è anche vero che ed è questa la contraddizione più forte, che magari quella ragazza tedesca di cui si parlava prima non riuscirà a cancellare tutto da internet, perché o si interviene con le maniere forti oggi, o si interviene tramite il denaro, oppure i latini avrebbero detto verba volant, internet manent, perché poi è molto difficile nei fatti cancellare, per una persona normale, cancellare delle informazioni e i dati da internet. C'è il caso di Tiziana Cantone, ricorderete, la povera ragazza che si suicida per immagini messe in rete della sua intimità, certo, che è un problema all'ordine del giorno, sì, per i ragazzi è l'ordine del giorno. È un problema all'ordine del giorno, ma tutti noi sappiamo che quel video, nonostante il suicidio, nonostante tutto... È incancellabile. Ancora oggi ogni tanto emerge. Questo è significativo. Sostanzialmente non abbiamo veramente il controllo della tecnologia. Allora, fermiamoci solo un istante, altri 30 secondi. La domanda che farò ai miei ospiti nell'ultima parte di questa trasmissione mi sembra scontata. A questo punto, visto che la tecnologia non ci darà mai nessuna rassicurazione sul nostro diritto di gestire comunque il nostro passato, dovremmo cominciare noi a cambiare la percezione che abbiamo della nostra vita privata, di ciò che per noi è un valore, della considerazione che gli altri hanno di noi, della nostra rispettabilità o della nostra mancata rispettabilità da parte di chi vede e legge la nostra vita. A tra un istante. Oggi vi voglio parlare di privacy, della possibilità di cancellare i nostri dati in maniera permanente, quindi evitando che qualcuno li possa recuperare dal nostro computer. Spesso ci capita di condividere il nostro computer con altre persone, o peggio ancora di regalarlo quando è diventato magari vecchio, o di volerlo vendere di seconda mano a qualcun altro, e il dubbio di lasciarlo con le nostre informazioni personali al suo interno ci viene sempre. È un programma ideato per fare tutta una serie di pulizie di ciò che vi raccontavo all'inizio del video, quindi evitare che si vedano i nomi e le collocazioni dei file aperti di recente, cancellare approfonditamente le cronologie dei vostri browser con cui avete navigato in internet, e poi soprattutto la cosa che secondo me è più importante, evitare che rimangano sul computer dati che invece voi avete anche cancellato dal cestino e che quindi qualcuno li possa in maniera fraudolenta recuperare. Vado ad aprire. Andrea Rossetti, ricordo, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. In realtà in questa complessa realtà che stiamo cercando di definire, poi ci sono le vie di mezzo, gli aggiustamenti, i software che vengono proposti, che alla fine però non risolveranno mai il problema, sennò sarebbe troppo facile, non staremmo qui a parlare. No, non risolveranno mai fino in fondo. La prima cosa è l'attenzione personale che dobbiamo porre alle informazioni che diamo in giro. A me è capitato di comprare un 3DS, che è una console di gioco usato, e ho scoperto che al suo interno il precedente proprietario aveva lasciato delle foto. Cioè, perché con queste macchinette si può anche scattare foto tridimensionali, e ce n'era un mucchio di foto, nessuna compromettente per carità, però del proprietario precedente. L'unica cosa che possiamo fare è continuare a prestare attenzione, anzi non continuare, iniziare a dare attenzione alle informazioni di noi che lasciamo in giro, che in qualche modo collezioniamo e collazioniamo all'interno di questi aggeggi che ci portiamo sempre in giro. Ecco, faccio per prima te la domanda che avevo già preannunciato. Dovrà cambiare anche la nostra considerazione e cognizione del concetto di privato? Ma sì, questa è una delle cose su cui si riflette da un po' di anni, insomma, perché effettivamente il problema della privacy è esploso con la diffusione degli strumenti elettronici. Indubbiamente il problema si è fatto cogente per tutti noi a partire dalla metà degli anni 90. Prima il problema della privacy c'era, ma era tutto sommato limitato a poche persone e a pochi mezzi di informazione. Io non so cosa succederà per in futuro. Sicuramente vedo gli adolescenti che mi circondano che hanno un'idea diversa di privacy da quella che ho io. Insomma, sono più disposti, forse in maniera irriflessiva, a lasciare in giro informazioni che io tutto sommato non condividerei. Ecco, Umberto Ambrosoli, che ricordo che insieme a Massimo Sidera ha scritto Diritto all'oblio, dovere della memoria. È anche lei convinto che cambierà qualcosa proprio nella percezione sociale generale di ciò che è mio, ciò che è privato, ciò che devo nascondere o ciò che posso condividere? L'evoluzione del diritto alla privacy, anzi del sentimento verso il valore della propria privacy, è destinato certamente a modificarsi con l'introduzione di tutte queste nuove meravigliose tecnologie che ci spingono a soddisfare l'impulso a condividere, ma che poi sperimentando nel loro utilizzo quotidiano palesano piano piano anche i loro piccoli limiti. Di fatto noi abbiamo già una considerazione diversa della privatezza rispetto ai nostri nonni. Provi a immaginare sua nonna, come penso mia nonna, cos'era la vita privata, che non si diceva, non si vedeva, si nascondeva, mica niente di nascondibile o di terribile, ma c'è una riservatezza che noi nemmeno ci immaginiamo. D'altro canto, da che mondo è mondo, i costumi si evolvono e un pezzo dell'evoluzione dei nostri costumi è che sono costumi meno privati, meno riservati. Però questo riguarda il tema del diritto alla privacy. Quel segmento del diritto alla privacy, che è il diritto all'oblio, ci può portare invece a maturare nell'utilizzo di internet in un'altra maniera, ovvero quello di abituarci a immaginare il fatto che internet non sia la fonte storica. Oggi con troppa facilità ricorriamo a internet per soddisfare una nostra curiosità storica, e invece la storia del diritto all'oblio, l'evoluzione del diritto all'oblio ci dice attenzione, perché in piena legittimità può non contenere le informazioni di fatti che si sono verificati e che hanno avuto una rilevanza nel momento in cui si sono verificati. Questo è molto interessante. Faccio l'ultima domanda a Massimo Sideri. Allora, alla fine, chi è che decide cosa faccia parte della memoria collettiva? Chi è che decide questa è storia e questa è metastoria, fantastoria, storia raccontata per i ragazzi? Chi è il grande ente, la grande memoria, Google o chi per lui? Ma aggiungerei una suggestione, non solo storia e metastoria. Quello che stiamo scoprendo è che stiamo vivendo una sorta di pre-storia digitale, cioè internet è giovane, stiamo affidando a internet e alla rete comunque una grandissima fiducia. In realtà ciò che stiamo scoprendo è che internet ha pochissimi anni, quindi lo trattiamo come un adulto, quando invece è un ragazzo, un teenager che sta tentando di crescere, sta tentando di capire. Quindi probabilmente queste società stanno anche vivendo una loro maturazione interna. Penso anche a Google, Facebook e al tema che abbiamo detto prima della responsabilità editoriale. Questi temi sono ormai entrati all'interno di questa società, quindi ciò che noi diciamo è che bisognerebbe aprire un dibattito molto più aperto e molto più collettivo, che non sia soltanto uno scontro. Le dico solo una cosa, Sideri, non so esattamente sì. A quale generazione lei appartenga dal punto di vista proprio anagrafico, ma se lei si ricorda, metà degli anni 90 si pensava che internet fosse il grande civilizzatore dell'umanità. Democrazia, certo. E noi invece oggi abbiamo a che fare con l'alfabetismo funzionale, che è una cosa che non sospettavamo, non pensavamo o non ci immaginavamo che il mondo fosse fatto di ignoranti, di ottusi, di persone che non hanno un minimo di capacità di analisi della realtà. Però questo ce lo fa capire in questo momento, proprio perché è giovane. C'è qualcuno che l'aveva compreso prima. Ricordo la famosa frase di Umberto Eco, che diceva appunto che i social network avevano dato voce alle persone stupide, no? Quindi ecco, quella chiaramente era una provocazione. Ma io allora lo attaccai, mi ricordo, disse: professore, scenda dalla cattedra, il mondo è anche sporcarsi sì. Le mani con questa umanità, non è che soltanto ai suoi studenti eletti della sua università. Allora attaccai Eco per questo, dico: ma che mondo vive? Il mondo è anche questo. Oggi magari sì, un ma po' io credo che quella fosse una provocazione, quello credo che fosse una provocazione che però anticipava molte tenti, come stiamo vedendo. Sì, aveva ragione, ma ha anche detto che questa umanità bisogna farci conti, bisogna gestirla, bisogna avere strumenti per gestirla. E seminare comunque, se uno si sente portatore di una certa saggezza, trovare gli strumenti anche, non dico per imporla, perlomeno per trovare delle aree dialettiche rispetto a quello che uno vuole rappresentare, come appunto avete fatto lei, Massimo Sidero e Umberto Prosoli, in questo libricino che trovo prezioso per cominciare a capire qualcosa su quello che sarà il futuro, più che altro rispetto a quello che è già un futuro che viviamo nel nostro presente. Alla prossima!